Il gioco d'azzardo rappresenta per l'Italia un'industria inesauribile, una fonte di guadagno pari a miliardi e miliardi di euro. Vi sono migliaia di lotterie istantanee, centinaia di sale bingo, migliaia di sale per le scommesse, vari parchi di divertimento con casinò e tante altre iniziative per catturare il cittadino che si tiene lontano dalle ricevitorie. Purtroppo non sono poche le vittime che rimangono intrappolate dalla dipendenza dal gioco, situazione che si riversa terribilmente nella società e soprattutto nella famiglia. La drammatica testimonianza di una moglie rende l'idea quanto sia fatale la schiavitù del gioco d'azzardo. La prima volta che ho saputo che era pieno di debiti ero preoccupata. Solo di risolvere la questione economica, pensavo che la questione sarebbe finita lì. Dopo 5 anni ho scoperto che avevano migliaia di euro di debiti e allora siamo andati da uno psichiatra. Dopo 3 anni di terapia pensavo che avessimo risolto il problema. Poi ho scoperto per l'ennesima volta che aveva continuato a giocare ed era pieno di debiti. La cosa che mi faceva stare male è che, pur essendo mio marito, nonostante vivessimo insieme, non sapevo tante cose su di lui. Sono stanca. Oggi vivo, domani si vedrà. Forse dico questo per difendere me stessa, altrimenti ci è da impazzire e non posso permettermi di avere un esaurimento nervoso. E, una cosa enorme, il gioco, viene distrutta la serenità familiare. Non si crescono bene i figli. Prima credevo che fosse un problema di egoismo suo. Mi dicevo forse cattivo pensa solo a sé. Ora sto accettando che è malato. Questa testimonianza, ed altre simili, mettono in luce una drammatica e triste realtà che serpeggia nella nostra società. Realtà che forse è accanto alla nostra porta di casa, o nella quale disgraziatamente si trova, o si è venuta a trovare qualche persona nostra amica o parente. La stessa cosa successe a me quando mi fu diagnosticato la malattia del diabete mellito. Non conoscevo la patologia del diabete neppure di nome. Non avevo lontanamente l'idea cosa fosse. Ma quando entrai nell'universo dei diabetici scoprii con mia grande sorpresa quanti diabetici ci sono e quanta gente è affetta da questa malattia. Così, per scoprire il triste e angosciante mondo dei giocatori d'azzardo, basterebbe avere un familiare, un parente, un amico che è vittima del gioco d'azzardo. Ma grazie a Dio, le testimonianze altrui, meno per chi ha orecchi meno, sono sufficienti per renderci conto che questa infausta disgrazia è ovunque. Basta solo citare la testimonianza di un giovane che, avendo perso per l'ennesima volta al lotto, pensava al suicidio, ma ascoltando per radio l'Evangelo, incuriosito, si mise in contatto con l'emittente, sperimentando così che Cristo può risolvere i problemi se chi si rivolge a lui lo fa con cuore convinto. Quello che sorprende quando una persona è in stato di dipendenza da quella la droga rappresentata dal gioco d'azzardo è la reazione benigna dei familiari. Ecco la testimonianza di una mamma. All'inizio ho sempre coperto mio figlio, lo abbiamo anche aiutato a saldare i debiti per paura di ricorrere agli usurai. Poi ho scoperto che la sua era una malattia che avevo sempre nascosto. Pensavo che era colpa mia, che come madre avevo commesso degli errori, che non mi ero presa abbastanza cura di lui. Queste testimonianze mettono in evidenza come gli italiani meno, e parlo degli italiani solo perché sono italiano, meno abbiano dei sensi di colpa fuori luogo e quanto ci sia bisogno di conoscere il bellissimo messaggio del Vangelo. Prima di tutto occorre specificare che essere schiavi del gioco d'azzardo non è una malattia, ma un peccato. Secondo la Scrittura, il peccato è la violazione dei comandamenti di Dio, ed essere dipendenti del gioco è un atto di disubbidienza al volere di Dio. Per quanto il popolo italiano abbia la nomina di essere un popolo cristiano, purtroppo di cristiano nel popolo italiano non ci è neppure l'odore, perché per quanto questa nazione possa essere religiosa, o meno, non conosce la legge di Dio. Dove è scritto meno, si chiederebbe qualcuno, meno che il gioco d'azzardo è un peccato o è violazione alla legge di Dio? Molto probabilmente nella parola di Dio non vi è nessun comandamento specifico affermante che il gioco d'azzardo sia un peccato Come del resto non vi è nessun comandamento che sia peccato prendere il caffè, ma il male sta nello scopo per il quale si gioca e nella dipendenza dal gioco. Gesù lo disse molto chiaramente. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Matteo 6:24-25. Secondo Gesù non è possibile amare Dio e il denaro nello stesso modo. Il che vuol dire che se si dà la precedenza a voler diventare ricchi, non si può contemporaneamente compiere la volontà di Dio. Qualcuno penserà che non si gioca per diventare ricchi, ma solo per avere un poco di denaro in più per migliorare la propria situazione economica. E secondo queste persone, questo obiettivo non può essere malvagio. Da un lato sembra onorevole e buono voler vivere decorosamente mediante le vincite, ma si dà il fatto che acquistare del denaro con la sorte non è certamente il metodo di Dio indicato ai suoi figli. Cercare di avere un'esistenza decorosa con il gioco è contrario al volere di Dio. Chi gioca passa da una fiducia in Dio, il quale è capace di dispensare tutto ciò che è necessario, ad una fiducia nella sorte stessa, sorte tra l'altro che può essere favorita anche dal diavolo. Infatti, molti dimenticano che il diavolo offrì a Gesù ricchezze e gloria. I primi cristiani non giocavano mai per ottenere del benessere. Il loro atteggiamento in merito al futuro potrebbe essere riassunto in quanto troviamo scritto nella lettera agli Ebrei. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così possiamo dire con fiducia: «Il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo?» Ebrei 13:56. Accontentarsi di quello che si possiede, essere soddisfatti del tenore di vita che Dio impone, è il grande segreto di chi ha conosciuto Cristo. Perfino l'Apostolo Paolo ha dovuto imparare ad accontentarsi di quello che aveva e delle situazioni nelle quali si trovava. E questo dimostra che ricevere dei doni, di essere un evangelista e un insegnante delle dottrine cristiane, come accadde all'Apostolo Paolo, non è sufficiente per avere il giusto atteggiamento verso le ricchezze che la vita offre. È naturale, giusto e buono cercare di migliorare la propria situazione economica, ma quando si cerca in tutti i modi, meno è tra questi il gioco d'azzardo, meno di diventare ricchi o possedere del denaro in modo illecito, alla fine vi sarà amarezza. Se l'eredità, acquistata con precipitazione all'inizio, alla fine non sarà benedetta. Proverbi 20:21. Quanto più una ricchezza ricevuta all'improvviso e illecitamente non produce il benessere dovuto. Forse è giunta l'ora che ogni uomo formuli la preghiera che troviamo in quel pozzo di saggezza, che è il libro dei Proverbi. Io ti ho chiesto due cose: non negarmele prima che io muoia, allontana da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, cibami del pane che mi è necessario. Perché, una volta sazio, non ti rinneghi e dica: chi è l'Eterno? Oppure, divenuto povero, non rubi e profani il nome del mio Dio. Proverbi 37:9. Chi si sente soddisfatto di quello che possiede non è tentato a giocare d'azzardo. Perciò la buona cura per chi è schiavo del gioco è quella non tanto di psicanalizzarlo, ma di infondere in lui, mediante l'amore e l'aiuto dello Spirito Santo, il sentimento di appagamento per quello che possiede. Il problema di chi è schiavo del gioco non è il denaro, ma il suo cuore pieno di desideri illeciti. Perciò la malattia non è tanto da trovarsi nella mente, quanto piuttosto nell'animo, o quello che noi chiamiamo cuore. Le testimonianze delle mogli che hanno un marito vittima del gioco d'azzardo sono sempre scioccanti. Eccone un'ultima. Ho sposato mio marito che sicuramente già giocava. L'ho sempre coperto. Non ho mai dato la colpa a lui del fatto che giocasse e che ci facesse mancare tante cose. All'inizio lo giustificavo. Lavorava fuori, lontano dalla famiglia, e in fondo ero contenta che come svago avesse il gioco piuttosto che altre donne, poi dalla giustificazione sono passata ai sensi di colpa. Ho iniziato a soffrire di insonnia, tachicardia, provavo rabbia, eppure non facevo nulla. Ho passato un periodo di depressione, avevo continui pensieri di morte. Poi pian piano ho iniziato a parlare di me, ho cominciato a capire che ci sono anch'io, ho iniziato a occuparmi delle mie cose. Gli italiani hanno bisogno del Vangelo affinché la loro coscienza sia indirizzata nel senso giusto, affinché distinguano tra il peccato e i sensi di colpa. Mentre la religione crea e impone sensi di colpa, il Vangelo mostra come comportarsi con chi si imbatte in una strada sbagliata. Un ragazzo che inizia a prendere la droga, un uomo che gioca d'azzardo, un figlio che dà segni di non sottomettersi più alla famiglia, un uomo che beve vino più del normale, vanno fermati sul nascere, senza provare dei sensi di colpa, se si è costretti ad agire per amore con fermezza e con metodi estremi. Non si diventa drogati da un giorno all'altro come non si diventa giocatori d'azzardo all'improvviso. Perciò la sapienza sta nel fermare drasticamente chi imbocca una strada sbagliata, piuttosto che cercare di fermarlo quando è troppo tardi. Un treno in corsa non lo ferma nessuno, ma se è in partenza ci è ancora speranza di fermarlo. Se invece il figlio drogato, il giocatore d'azzardo, la figlia con una doppia vita, il bevitore abitudinale si scoprono ormai incalliti, è meglio soffrire con reazioni e azioni rigorose che sopportare per pietismo, per poi trovarsi in situazioni ancora più brutte. Chi è schiavo del peccato meno perché così bisogna esprimersi meno della droga o del gioco, deve essere amato e compreso. Ma amare e comprendere non significa essere sempre tolleranti. Vi è un proverbio che si applica molto bene a queste situazioni. Meglio una riprensione aperta che un amore nascosto. Proverbi 27.5. Quando è il momento, quando si va in crisi, o tutta la famiglia è condizionata negativamente dal comportamento sbagliato di un componente, è opportuno reagire per salvare il salvabile, e cioè noi stessi e gli altri. Al giocatore d'azzardo, come ad ogni altro uomo, occorre presentare il bellissimo messaggio di Cristo, che è in grado di liberare dalla schiavitù del peccato, e di dare anche l'eterno e giusto obiettivo di amare il prossimo come se stessi. Se tu dunque sei schiavo del gioco d'azzardo, esci fuori dal tuo egoismo. Se ritieni che la tua non è una malattia ma una schiavitù del peccato, se consideri ed ami tua moglie, la famiglia e i parenti come se stesso, allora troverai la forza di uscire dalla piovra del gioco. E chi ha posto fede in Cristo sa che queste non sono solo parole. Marzo 2006. Ellero.